Ciao a tutte e tutti e bentornati, bentornati a Uru, la trasmissione che parla di musica africana. Stasera parliamo di una nazione di cui ancora non avevamo mai né parlato né dato niente di musica. Sì, parliamo infatti della Namibia, questo stato dell'Africa meridionale, particolare perché si sta parlando di uno stato, un'estensione complessiva di 825.000 e passa chilometri quadrati, cioè quindi più o meno 3 volte l'Italia, e con una popolazione totale di 2 milioni di abitanti circa. Quindi la nazione, insieme alla Mongolia, ha la minor densità di popolazione del mondo. L'altra particolarità della Namibia, oltre a essere un bellissimo paese, è che è stato il penultimo territorio africano a ottenere l'indipendenza. Soltanto nel 1990 si è liberata, dopo una lunghissima, pesantissima, sanguinosa lotta di liberazione dal dominio di uno Stato che in questo caso non era una delle potenze coloniali o comunque uno Stato europeo, ma bensì uno Stato africano, e cioè il Sudafrica, con cui appunto la Namibia tuttora confina nella parte meridionale, e che veniva considerato nel momento in cui il Sudafrica soggiogava, metteva il proprio giogo sulla Namibia, veniva sostanzialmente considerato, cioè il Sudafrica aveva la pretesa di considerare la Namibia come parte integrante del proprio territorio e conseguentemente con gli abitanti soggetti alle stesse leggi a cui erano soggetti gli abitanti del Sudafrica. Essendo gli abitanti della Namibia neri, sostanzialmente dovevano soggiacere alle leggi, all'apartheid, a questo infame metodo politico di governo, gli stessi abitanti del Sudafrica. Essendo stata liberata, essendosi liberata soltanto nel 1990, ha anche una propria particolarità dal punto di vista culturale e conseguentemente dal punto di vista musicale. A differenza degli altri paesi, a differenza degli altri stati dell'Africa, si sono resi indipendenti più o meno in un periodo che va dall'inizio degli anni 60 alla metà degli anni 70, in questo caso le colonie portoghesi, Angola, Mozambico, Capo Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé e Principe, diciamo che non ha potuto, tra virgolette, partecipare a quel grande movimento internazionale, diciamo, attraversava la stragrande, anzi tutto il mondo, negli anni 60-70, e quindi da un lato con la riscoperta, in questo caso specificatamente in Africa, delle proprie radici popolari e quindi della propria cultura popolare e quindi della propria musica popolare, su cui poi si veniva a innestare, come dire, i nuovi suoni, le nuove parole, le nuove idee che appunto questi movimenti di liberazione attraversavano tutto il mondo e quindi l'Africa, e che da un punto di vista musicale avevano, come dire, una possibilità di essere subito veicolati proprio perché contemporaneamente c'era l'esplosione, l'utilizzo, l'accesso del vinile. Sostanzialmente gli altri paesi dell'Africa, proprio nel momento in cui la musica era considerata non soltanto come veniva considerata musica classica, il bel canto, ma anche importante dal punto di vista dei testi, considerata anche come momento, passaggio di liberazione, tutto ciò avveniva proprio in un periodo, in un momento in cui c'era più facilità di diffusione di questa musica attraverso l'utilizzo del vinile, che appunto veicolava questi messaggi. Nello stesso momento, essendo la stragrande maggioranza, anzi la maggioranza degli stati africani liberatasi attraverso movimenti di liberazione o comunque attraverso lotte popolari, tutto ciò faceva sì che la musica stessa rappresentasse quello che erano stati i passaggi dei movimenti di liberazione delle lotte popolari e precedentemente, e che nello stesso momento in cui ci si liberava dal giogo coloniale E quindi diciamo il paese, qualsiasi paese dell'Africa, si cominciava a camminare, diciamo, come dire, a tentare di darsi una propria cultura, ecco che la musica era considerata parte fondamentale. Già di per sé la musica è una parte fondamentale della cultura, se non la più fondamentale della cultura dei paesi africani, ma in questo caso ancora più. Ecco, la Namibia non ha potuto diciamo usufruire, tra virgolette, di tutto ciò. Non solo, essendosi liberata proprio all'inizio degli anni 90, la musica diventava sempre di più una musica globalizzata e sempre di meno una musica in generale che faceva attenzione alle problematiche sociali, o comunque non, era sempre meno considerata forma di espressione popolare. Ecco che veniva, tra virgolette, invasa subito da quelle che era la musica globalizzata, musica mainstream, in particolar modo dai paesi di lingua anglosassone, gli Stati Uniti e l'Inghilterra. E quindi questa difficoltà. Questo non vuol dire che la Namibia non abbia una propria tradizione musicale, tutt'altro, anche perché essendo abitata prevalentemente da popoli nomadi e conseguentemente con una difficoltà, se non proprio una mancanza della parola scritta, ecco che la tradizione orale assumeva un'importanza ancora maggiore che per gli altri paesi, non solo africani, ma per gli altri paesi in generale. Una tradizione orale che sostanzialmente veniva espressa molto spesso attraverso il canto. Quindi una grandissima tradizione musicale, per lo più una sorta di non tanto basata sugli strumenti, ma basata sulla voce, che però non ha avuto la possibilità, proprio nel momento in cui c'era questa espansione del vinile, non ha potuto essere registrata. Nonostante ciò, ci sono comunque nel periodo degli anni 70-80 alcuni, in particolare cantautori, che da un lato attingendo alle tradizioni orali dei popoli, delle etnie namibiane, utilizzavano queste tradizioni orali su cui innestavano i propri testi, e in particolare testi che parlavano, si riferivano direttamente alle lotte di liberazione di questo paese. Cominciamo adesso allora a ascoltare un po' di musica. Il primo cantante è Jackson Kaujewa, musicista, compositore e cantante gospel e veterano della lotta per l'indipendenza della Namibia. Ha cantato in varie lingue della Namibia, tra cui l'Afrikaans, la lingua del Sudafrica, e l'inglese. Era nato come membro del gruppo etnico Herero, che ricordiamo sono stati vittima di un genocidio da parte dello stato colonizzatore della Namibia, la Germania, in un villaggio vicino a Ketmanshop. Più tardi rinunciò all'educazione dopo essere entrato in contatto con le canzoni di cantanti gospel come Mahalia Jackson, i cui testi basati sui diritti umani lo ispirarono. Nel 1973 ha iniziato a studiare musica al Dorkey Art and Music College per non bianchi di talento in Sudafrica. Tuttavia fu presto espulso dal paese per attivismo anti-apartheid e andò in esilio nel 1974. Dopo un breve periodo in Botswana, il movimento di resistenza, la SWAPO, con cui è stato associato fino alla morte, lo aiutò a trasferirsi nel Regno Unito, dove diventò il cantante principale del gruppo Black Diamond. Ha vissuto come insegnante in un campo profughi angolano dal 79 ai primi anni 80 e successivamente in Svezia. È tornato però subito in Namibia all'indipendenza nel 1990 dove ha cominciato a suonare, fare concerti e alla fine degli anni 90 era uno dei musicisti namibiani più famosi. Di lui ci ascoltiamo Kalahari. I feel like a man of men, born and raised in the Kalahari, watching the clouds drifting away from my sight and away from my home. Yes, I feel like a man of men. I am the question of the Kalahari, Kalahari, Kalahari, Kalahari. Kalahari, Kalahari, yeah. Na na na na na na. I feel like a man of mine trekking over the Kalahari, yeah. Watching the clouds gathering again, filling my heart with joy and happiness. Yes, I feel like a man of man with my arrow and bow. I'm ever ready. That's why I say, yeah, let it rain. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Kutam ngam kalaringa. Let it rain all over. Let it be. Sounds of Africa, let it be evergreen. Yes, I feel like a man of man. I'm here to stay. I'm here to die. Watching the rain pouring down over my world of the Kalahari, yeah. Yes, I feel like a man of man. I'm Asian and I am an African. That's why I say, yeah, let it rain. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Kutam ngam Kalahari ngam. Let it rain all over. Let it be evergreen. Let's hear the sounds of Africa. Let it be evergreen. ama kakroas Frika tua meko wa ngoesi Frika hango amua Frika haka titi asi Kalahare, Kalahare, yeah. E appunto abbiamo parlato precedentemente di Jackson Kaujela e del fatto che sia sostanzialmente associato durante tutta la sua parabola musicale e di militanza alla SWAPO. SWAPO sta per Southwest African People Organization, organizzazione popolare dell'Africa del Sud-Ovest. Era proprio il movimento indipendentista che sostanzialmente rappresentava il popolo namibiano e che lottava contro la dominazione sudafricana. Quello che c'è da capire rispetto alla Namibia è appunto il fatto che veniva considerata la Sudafrica e nello stesso momento tutto il resto del mondo sostanzialmente lo riteneva illegale, veniva considerato il Sudafrica come proprio territorio. Veniva considerato come proprio territorio proprio perché il Sudafrica, l'Africa del Sud-Ovest, come veniva chiamata allora, che poi dopo l'indipendenza è stata sì, è subito ribattezzata Namibia, è un territorio ricchissimo di risorse naturali, oro, argento, diamanti e via dicendo, ma anche perché rappresentava per i fascisti, per il regime fascista sudafricano, un trampolino, un passaggio fondamentale per combattere contro quella che era una delle nazioni che si erano rese indipendenti e che più diciamo contrastava il dominio dell'apartheid, offrendo assistenza all'African National Congress, che a sua volta combatteva l'apartheid, ma anche sostanzialmente perché si voleva porre come si era posta come nazione guida del panafricanismo, e stiamo parlando appunto dell'Angola, che è lo stato confinante a nord con la Namibia. E quindi appunto la Namibia era una sorta di trampolino di lancio da parte delle truppe sudafricane sostenute dalla CIA e da alcune organizzazioni militari collegate sempre con le potenze coloniali europee per portare avanti una sorta di guerra civile contro, diciamo, il governo angolano. Tutto ciò porta appunto all'oppressione del popolo namibiano e continue invasioni da parte del Sudafrica e dell'Angola, fino a che non si arriva alla fine degli anni 80, in cui da un lato le forze della SWAPO, appunto la Southwest African People Organization, sempre più forte, che comincia a contrastare in una maniera veramente forte le forze sudafricane, dall'altro un'organizzazione, l'esercito angolano, si organizza e che, aiutato dalle forze cubane, respinge in una maniera sempre più decisa i tentativi di invasione da parte del Sudafrica, fino ad arrivare a quella che è considerata una sorta di svolta, di snodo in questa guerra tutta svolta sia all'interno del territorio africano, cioè la battaglia di Quito Canavale, che è considerata la battaglia più grossa, più importante che si è svolta sul suolo africano dopo la seconda guerra mondiale, sì. In cui il Sudafrica, in questo caso un corpo militare e un corpo di polizia che si erano strutturati sul modello delle SS, aiutati dalla CIA come attraverso tramite armi, forniture di armi, ma anche di consiglieri militari e di combattenti direttamente sul campo, e dalle queste forze, diciamo, colluse con le potenze coloniali europee, prendono una risolata, diciamo proprio così, pazzesca da parte delle forze cubane, forze dell'MPLA, Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, e dalla SWAPO Unite Insieme, che appunto dopo questa battaglia in cui riescono a fermare le forze, queste forze, diciamo, controrivoluzionarie, nel giro di pochi anni, di pochi mesi, a non solo far cessare la guerra civile in Angola, ma anche arrivare alla liberazione della Namibia, che formalmente diventa indipendente il 21 marzo, il giorno di primavera del 1990. E Jackson Kaucera, che appunto è sempre stato organico alla SWAPO, aveva già composto questo pezzo che si intitola The Window Change, che è una storia e un testo importante. Innanzitutto il testo in cui chiaramente, come molti testi da parte di quelli che cantano i movimenti di liberazione dell'Africa, sono una sorta di inno al panafricanismo, e quindi vi ricordo molto spesso la parola Uhuru, che significa libertà e che è appunto il titolo di questo programma, e ricordo molto spesso anche la parola Amandla, che è una parola Xhosa Zulu, e quindi nella lingua viene parlata, nella lingua principale viene parlata in Sudafrica, ma anche in quel periodo in Namibia, che significa potere. E era un popolare grido di battaglia nel giorno di resistenza contro l'apartheid, e anche utilizzato dalla SWAPO e quindi anche dall'African National Congress, per cui al grido di Amandla, e cioè potere, la gente rispondeva Ngawetu, che significa per noi, sostanzialmente mettendolo insieme, potere per noi significa power to the people. Questo è appunto il pezzo The Window Change che vi facciamo ascoltare. Ladies and gentlemen, this song is called The Window of Change Sweeping Across the African Continent. The Window of Change Sweeping Across the African Continent. The Window of Change, oh, sweeping across the African Continent. Over there they say this, oh yeah, Africa, oh yeah, ooh. Amandla, oh wait to, Aluta, continue, mama. Viva Africa, yeah, the Wind of Change, the Wind of Change, the Wind of Change, oh yeah, the Wind of Change. Stop the wind of fear, the wind of fear, oh boy. Spostiamo in Kenya per darvi la notizia che le abitazioni di 30.000 persone sono state demolite nel sobborgo di Kibera di Nairobi, per far posto a una strada a scorrimento veloce. Ai residenti è stato dato un preavviso di 2 settimane per andarsene. Nel giorno prestabilito i bulldozer si sono recati all'alba in zona mentre le persone guardavano impotenti la distruzione delle loro case. Già all'inizio di giugno centinaia di famiglie, sempre di Kibera, sono rimaste senza casa per la costruzione della ferrovia. Può sembrare una questione semplice e lineare, c'è da costruire un'infrastruttura utile, una strada o una ferrovia, un bene pubblico che deve avere la priorità su interessi privati, quindi deve avere spazio. Inoltre, in tale spazio c'è chi ha edificato abusivamente, quindi non può avere niente da eccepire. Ma non è così semplice. In primis si tratta di abitazione, ma dove non c'è una divisione tra spazio domestico e luogo di lavoro, nelle case si cuce, si produce, si cucina, lo spazio adiacente è il luogo di vendita. Con la demolizione non si priva solo della casa ma anche del lavoro. Secondo, non è l'abusivismo italiano, qui le persone sono arrivate prima delle infrastrutture. Kibera deriva da Kibra, che in arabo significa foresta. Il terreno su cui sorge venne consegnato dall'esercito inglese ai Nuba, che avevano servito la corona britannica. Gli African Kings Rifles ricevettero all'inizio del secolo scorso i 250 ettari di terra dove vivono oggi i circa 800.000 abitanti di Kibera, ma tuttora i certificati di proprietà sono incerti. Nell'Africa orientale e in generale in tutta l'Africa subsahariana, nonostante le rilevanti differenze esistenti tra le popolazioni, la proprietà della terra si basava sul concetto di proprietà comune. Inoltre, nel periodo coloniale non era permesso agli africani di essere proprietari di terreni né di costruire casa. Nelle città gli africani non potevano essere proprietari dell'abitazione, così che una volta terminato il periodo di lavoro si fosse sicuri che sarebbero ritornati al villaggio. I residenti in città potevano possedere un permesso di occupazione del suolo per un tempo definito, un permesso di abitazione revocabile in ogni momento, non trasferibile o ereditabile, con cui era possibile costruire con materiale non permanente. Nacquero in questo modo gli speciali insediamenti indigeni, tra virgolette, diventati oggi gli slums. Con la fine dell'epoca coloniale c'è stata una grossissima pressione migratoria verso le città, perché lì tutti gli investimenti pubblici si sono concentrati, sono arrivate così migliaia di persone, ma senza un posto di lavoro ad attenderle. Sono nate città che nel loro perimetro hanno case di fango e grattacieli, campi da golf e interi quartieri senza una pianta. Quindi alla fine di tutto rimangono più di 30.000 persone senza casa, la maggior parte delle quali senza lavoro, e che perde non solo casa e lavoro, ma anche la socialità che comunque tiene insieme queste, questi insediamenti, e quindi adesso, nonostante che questi insediamenti siano considerati slum, baraccopoli, eccetera, alla fine questa gente non ha più niente. E parliamo di un altro musicista, in questo caso anche il compositore namibiano, e che, pur appartenendo a quella frangia di cantanti namibiani che hanno iniziato appunto dopo il 1990, con tutte le problematiche che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è un eccezionale cantautore. I suoi testi mostrano consapevolezza, integrità, osservazione, e trasmettono critica socio-politica, oltre che messaggi di dignità e di uguaglianza. Stiamo parlando appunto di Ras Shema, che è nato come Omeo Yalalithala, anche cresciuto nella Namibia centro-settentrionale, e appunto un nome già la dice lunga rispetto a quello che ha significato e che significherà insomma la sua vita. I due occhi che osservano significa proprio Omeo Yalalithala, poi è diventato appunto Ras Shema. Andato in esilio nel 1979 all'84, vivendo appunto nei campi profughi in Angola e in Zambia, ed è proprio in questo periodo che inizia a sviluppare la sua passione per la musica, iniziare a cantare e a suonare la chitarra fin dai primi anni appunto dell'adolescenza. Si trasferisce successivamente in Nigeria e assiste a alcuni concerti di Fela Kuti. Ritorna in Angola nel 1990 e entra a far parte della compagnia culturale Ndilivani Swapo, anche qui in questo caso una compagnia legata direttamente alla Southwest African People Organization. Continua negli anni successivi a far parte di questa compagnia culturale, e successivamente da dopo il 1990 inizia la sua carriera solista. Di lui vi facciamo ascoltare un pezzo, in questo caso dal vivo, che si intitola Nekwa, ed è suonato alla White House di Windhoek, la capitale della Namibia, che è situato a sua volta a Katutura, il quartiere popolare di Windhoek, che è sostanzialmente non proprio un centro sociale, ma una cosa che ci si avvicina molto facilmente. Quindi questo è Ras Shema con Nekwa. Kwa chat Sima, oh yeah, ganyo ko, biate. Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, Scooby, dinge, Scooby, dinge. On the quadja, Timati, Mati, Mati, Mati, Mati. E ci spostiamo per una notizia, appunto, in al confine, no, diciamo, nel Corno d'Africa, Etiopia e Eritrea. Tra l'altro c'è da ricordare che se la Namibia è stata la penultima nazione a rendersi indipendenza, l'Eritrea è stata l'ultima nel 93 che si è resa indipendente, anche in questo caso da una nazione africana, cioè l'Etiopia. Poi c'è da considerare anche il Sud Sudan, ma qui diciamo le complicazioni, i passaggi sono molto, molto diversi rispetto a quelli che hanno caratterizzato l'indipendenza della Namibia e dell'Eritrea. E il fatto è che dopo 20 anni di guerra è stato siglato un accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea all'inizio di luglio, che chiaramente potrebbe avere conseguenze per tutta la regione. Gli ultimi eventi, secondo alcuni osservatori internazionali, ridisegneranno radicalmente la mappa geopolitica del Corno d'Africa, e la rivalità tra Etiopia ed Eritrea, che ha avuto ripercussioni anche nei conflitti in Sud Somalia e in Chad, in questo caso gli accordi di pace potrebbe far cambiare appunto tutta diciamo la geopolitica della regione. Si è visto il primo ministro etiope Abiy Ahmed arrivare all'aeroporto internazionale di Asmara, la capitale dell'Eritrea, dove ha incontrato l'omologo eritreo Isaias Afewerki. I rapporti tra Eritrea e Etiopia erano complicati a molti anni. L'Eritrea ottenne l'indipendenza appunto dall'Etiopia nel 1993, dopo essere stata a lungo una sua provincia. Inizialmente il paese mantenne buone relazioni, ma nel 1998 iniziò una guerra per dispute territoriali, dove ci furono, secondo una stima, 80.000 morti. Da allora chiaramente le relazioni tra i paesi sono rimaste ostili. L'Etiopia ha occupato alcuni territori in violazione dell'accordo, aveva messo fino agli scontri, mentre il leader eritreo Isaias Afewerki ha usato il pretesto di una presunta minaccia alla sicurezza nazionale proveniente dall'Etiopia per inasprire la repressione interna. Con l'insediamento dell'ultimo primo ministro etiope all'inizio di aprile ci sono stati segnali di apertura, e successivamente l'Etiopia ha annunciato a sorpresa che il governo avrebbe rinunciato alle rivendicazioni territoriali che erano state la causa dell'inizio della guerra tra i due paesi. Poco dopo questo annuncio, il governo eritreo ha comunicato la sua intenzione di mandare una delegazione ad Addis Abeba. E così, dalla fine di giugno, nelle principali strade di Addis Abeba sventola la bandiera dell'Eritrea, e in diverse città, zone della città, erano stati appesi cartelloni striscioni scritti di benvenuto sia in amarico, la lingua ufficiale etiopica, sia in tigrino, una delle lingue parlate in Eritrea. C'è anche da considerare che sostanzialmente gli abitanti del nord dell'Etiopia e tutti gli abitanti dell'Eritrea sono della stessa etnia e parlano la stessa lingua, il tigrino, e nonostante ci fosse questo confine, proprio questo confine aveva diviso famiglie, fratelli erano rimasti da una parte e altri dall'altra, insomma, per cui da un punto di vista del popolo, o almeno se non altro del popolo del nord dell'Etiopia e quello del sud dell'Eritrea, era sempre sembrato una cosa assurda questo conflitto, e quindi staremo a vedere. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo di Ras Shyama, e cioè Travelling. And if the rain do fall before the midnight hour. The lightning will be there to see me through the darkness. Yes, oh, ain't got no sword. Jaja is my shepherd. I am ready for the next day. I've got to see the rainbow. Creation will defend I and I from the season to the next season. I will be like a bird in the sky. I've got to feel the wind blowing across my wings. I'm like Johnny the Baptist. Them are watching me traveling through the wilderness, traveling through the wild side, traveling through the wilderness. A lot of blessings. Giorni, proprio in questi giorni, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dei Paesi dell'Unione Europea ha approvato l'estensione al Sahara occidentale delle tariffe preferenziali concesse al Marocco dall'accordo di associazione che dal 2000 gestisce l'insieme delle relazioni politiche ed economiche tra le due sponde. Con questa decisione l'Unione Europea fa tornare il Sahara occidentale sotto la competenza di Rabat, aggirando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Europa stessa, dell'Unione Europea stessa, che nel dicembre del 2016 aveva stabilito che l'accordo di libero scambio con il Marocco, che regola il commercio dei prodotti agricoli e della pesca, non si dovesse applicare anche a Sahara occidentale perché non ne fa parte. Dal 91 è in corso infatti l'iniziativa delle Nazioni Unite per assicurare l'autodeterminazione del Sahara occidentale mediante referendum. La decisione del Consiglio d'Europa è intervenuta alla scadenza, lo scorso 14 luglio giusto, dell'accordo di pesca 2014-2018 con il Marocco, che aveva minacciato ritorsioni nel caso in cui il rinnovo non avesse compreso il territorio saharawi. Non a caso, nel suo comunicato, il Consiglio esprime l'intenzione che questo passo possa far progredire i negoziati per il nuovo accordo di pesca nei prossimi mesi. Il Fronte Polisario ha fermamente respinto la scelta del Consiglio e si appella al Parlamento Europeo affinché bocci quella che considera giustamente una violazione della sentenza della Corte Europea, e a questo proposito ha annunciato un ricorso alla stessa Corte per i danni finora subiti. Il Polisario ricorda inoltre che, in qualità di rappresentante del popolo sahrawi, aveva invitato l'Unione Europea a entrare in negoziato per lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio sahrawi senza che Bruxelles desse seguito alla proposta. Questa è una cosa non di poco conto, poiché il 91,5% del pescato legato agli accordi tra Marocco e Unione Europea avvengono in realtà nelle acque del Sahara occidentale, come denunciato un mese fa dal Western Sahara Resource Watch, l'osservatorio sulle risorse del Sahara occidentale. La Commissione fa figurare nell'elenco delle consultazioni non solo questa organizzazione, ma anche altre che in realtà non sono mai state ascoltate, una vera e propria messa in scena al solo scopo di fingere di rispettare la sentenza della Corte. Colpisce veramente il disprezzo della Commissione e del Consiglio per la legalità internazionale. L'ultima parola spetta ora al Parlamento europeo. Se le nuove disposizioni saranno effettivamente, definitivamente approvate, il Polisario ha già annunciato che ricorrerà a una forte opposizione. E parliamo ora di Jerry Dammers, degli Special, e di Robert Wyatt, l'ex batterista dei Software Machine. Questo perché quando la band si è sciolta, e proprio dopo aver prodotto il pezzo di Nelson Mandela, Jerry Dammers ha rivolto le sue attenzioni alla situazione del paese vicino al Sudafrica, appunto è la Namibia. Ha coinvolto in questa sua sensibilizzazione Robert Wyatt, l'ex batterista di Soft Machine, appunto, tra l'altro noto attivista politico, ha fatto modo che ed è stata organizzata un'incisione in cui sono presenti Robert Wyatt e alcuni cantanti della SWAPO, che abbiamo visto appunto l'Organizzazione del Popolo dell'Africa del Sud-Ovest e il Movimento di Liberazione della Namibia. È stato prodotto un singolo con un lato A e un lato B, e in cui facevano parte lo Swapo Singer e musicisti Zutron, fra cui Linval Golding, Dick Kachel, Annie Whitehead e appunto Jerry Dammers, che suona il piano, il sintetizzatore e la chitarra. Il pezzo, i titoli dei due pezzi sono: un pezzo si intitola The Wind of Change, che è appunto la versione ska, diciamo, di The Wind of Change, che abbiamo già sentito cantato da Jason Kamokesha, e un altro pezzo che si intitola Namibia, composto apposta per l'occasione, e che è il pezzo che vi facciamo ascoltare. Quindi Robert Wyatt e gli Swapo Single che cantano Namibia. Bueno, bueno, bueno, kumbaya. Tune me, bueno, tune me. State ascoltando Uru qui su Radio Wombat, su wombat.noblogs.org. Vi ricordo che da questo stesso sito potete ascoltare tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, e vi ricordo anche i nostri social. Potete seguirci su Twitter a Radio Wombat Fi, oppure potete seguire anche Uru, visto che anche questa trasmissione ha il proprio profilo Twitter a Uru-RW di Radio Wombat. Vi ricordo anche le repliche di questa trasmissione, che potete ascoltare in streaming sempre su wombat.noblogs.org, la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30. E ci sentiamo un altro pezzo di Jackson Kaujewa, Power to the People. This is the solidarity song with the people of Vietnam, Mozambique, Angola, and Guinea-Bissau. When I remember the people of Vietnam, I just want to say our power to the people of Vietnam. Finisce qui questa puntata di Uru, vi aspettiamo la settimana prossima, ciao a tutte e tutti. Ciao ciao.